A bordo campo di Dario Ricci. Un giro d'affari stimato in circa 100 o 200 miliardi di euro annui. Beh, la dimensione di quello che è il mercato delle scommesse clandestine già ci dà l'idea della estensione e della profondità del problema. E ai noi, gli ultimi recenti capitoli di Scommessopoli ci danno anche l'idea di quanto il problema sia vivo nel nostro calcio, ma soprattutto nel nostro sport, tanto che il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, considera quella delle scommesse clandestine una minaccia ancora più pericolosa della stessa lotta al doping. Come avete capito, ci sono tutti i motivi per tornare su questo tema oggi qui a bordo campo, e lo facciamo con una serie di interviste inedite, di testimonianze inedite che abbiamo raccolto nel recente convegno promosso qui a Milano dall'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, dalla Gazzetta dello Sport e dall'Associazione Europea degli Operatori delle Scommesse. Un workshop in cui si è fatto un po' il punto della situazione, analizzando criticità e cercando di ipotizzare soluzioni. E allora partiamo proprio con queste testimonianze. Il nostro primo ospite è Giovanni Maggi, il rappresentante italiano nella European Lottery Association, rappresentante di Sisal e Lottomatica e vicepresidente di Sistema Gioco Italia. Sentiamo proprio la sua testimonianza. Come operatori europei noi siamo associati, tutti i più grandi operatori sono associati in European Lotteries, che è un'associazione che raduna 70-80 diverse società di gioco in Europa, e ci muoviamo a livello istituzionale con la FIFA, col CIO, con la UEFA. Di base è una cooperazione internazionale, una cooperazione che poi vede presenti modelli di valutazione e di analisi del gioco che si sviluppano a livello europeo, a livello mondiale, in modo tale da avere sempre sotto controllo nel modo migliore possibile gli andamenti del gioco. È chiaro che questi controlli possono essere fatti e vengono fatti fra operatori legali, fra operatori riconosciuti dallo Stato, e di conseguenza possiamo essere d'aiuto e possiamo dare un contributo sostanziale se i consumatori hanno ben chiaro e ben presente quali sono gli operatori legali, dove è bene scommettere, dove è bene giocare, dove invece è meglio evitare. Quando si gioca o si seguono canali non ufficiali, non legali, poi fatalmente i dati non possono essere raccolti, i confronti non possono essere fatti e capita sovente che chi svolge azioni criminali poi si appoggia proprio su canali illeciti e di conseguenza fuori da qualunque tipo di controllo. Certamente una cosa importante è che tutte le organizzazioni internazionali che citavo prima lavorano tutte con Interpol, in modo tale da seguire questi flussi finanziari criminali che girano per paesi extraeuropei, in modo tale da poter intercettarli e poter poi intervenire in modo efficace. Ecco, per dare una dimensione del fenomeno, di che numeri, di che mercato stiamo parlando rispetto al gioco legale e percentualmente quello illegale. Posso solo dire che il mercato lecito e il mercato legale in Italia sta declinando, quest'anno ci sarà un calo del 4-5%, anche in virtù del fatto che c'è molto gioco illegale che va su canali non controllati. Strumenti di controllo, perché molto si sta facendo, come ricordava, ma moltissimo resta ancora da fare. Quali possono essere le soluzioni a breve termine da adottare? Ma guardi, noi operatori, lavorando insieme a AMS, Monopoli di Stato, che è il regolatore italiano per il gioco, abbiamo dei sistemi di tracciabilità del gioco e di comunicazione dei flussi di gioco anomali, per cui in buona sostanza ogni volta che confrontandoci fra operatori, confrontandoci con i monopoli di Stato, si evidenziano dei comportamenti di gioco anomali, o perché ci sono giocate troppo alte su un certo specifico evento o su una specifica partita, o per altri motivi, noi lo segnaliamo ai monopoli di Stato, che poi attraverso canali istituzionali lo segnalano alla Federazione Calcio e alle Procure della Repubblica quando è il caso, in modo tale da cercare di intervenire preventivamente, cioè prima che la partita si svolga o prima che l'evento sportivo si svolga, intervenire preventivamente avvertendo gli arbitri, avvertendo le società sportive, in modo tale da cercare di intervenire in radice, cioè prevenire l'illecito. Spesso si riesce, certe volte purtroppo, come evidenziato, no, ma questo unito al sistema di monitoraggio internazionale che come associazione della European Lotteries abbiamo sviluppato è uno degli strumenti, certamente non l'unico, ma uno degli strumenti che noi come operatori mettiamo a disposizione e sui quali siamo ovviamente ben presenti e ben pronti a aumentare ancora di più la nostra pressione. Certo, poi d'altro canto ci vuole supporto delle polizie, supporto dell'Interpol, supporto delle organizzazioni internazionali, perché come dire, come ho detto, il fenomeno delle scommesse clandestine è un fenomeno mondiale che ha molto lontano dall'Italia certi suoi centri di ragionamento. Situazione complessa, quindi problema complesso da affrontare insieme in maniera congiunta a livello almeno europeo ma addirittura internazionale, perché la sfida per ottenere scommesse quantomeno trasparenti, legali e legittime si gioca su un terreno nuovo, diverso da quello tradizionale. È il terreno definito da Internet. L'ingresso di Internet ha cambiato questo scenario, come testimonia Christian Cable di CK Consulting, l'agenzia specializzata in consulenza in ambito di sport e scommesse. With the Internet, everything has changed. And from 250 con Internet tutto è cambiato, ci dice Christian Cable, e da 215 operatori che prima erano presenti a livello mondiale si è passato, e pensate alla cifra di 10.000, e insieme ai nuovi operatori sono arrivate nuove scommesse su nuovi tipi di sport, chiaramente con possibilità di vincite più elevate ma anche con maggiori rischi e con minori possibilità di controlli e di trasparenza. Come provare a far fronte a questa nuova situazione? Il primo argine, la prima risposta è la devono dare i protagonisti in campo, i giocatori del calcio, ma di qualsiasi sport. Decisivo è l'elemento della loro formazione. Sono spesso, in molti casi, soggetti deboli, magari poco informati, poco preparati sul tema, sull'argomento, e che hanno anche pochi strumenti culturali per far fronte alle minacce ma anche alla malizia delle grandi organizzazioni criminali che attraverso le scommesse clandestine cercano profitti facili e consistenti. E allora abbiamo chiesto un parere a Thierry Pujol, direttore Security and Risk Management della francese François Desjeux e responsabile del comitato Security and Risk Management della World Lotteries Association e della European Lotteries. We need to help them and we can do this on not only operators. Abbiamo la necessità di aiutarli, dobbiamo aiutarli, ci dice Pujol, perché spesso sono giocatori protagonisti sì di questi sport ma che non hanno l'adeguata formazione culturale, spesso provengono da aree povere del mondo e questo li rende più facilmente condizionabili dagli interessi della criminalità organizzata. In Italia, in Francia, in tutta Europa ci sono dei programmi, dei progetti, ci spiega ancora Pujol, ma la formazione non è mai troppa, dobbiamo educarli a non scommettere sui loro stessi giochi, a non aprire la porta attraverso quelle che sono definite le funny bets, cioè quelle scommesse del tipo posso regalare un calcio d'angolo alla squadra avversaria e vincere una piccola cifra, perché quello è un uscio aperto all'ingresso nello sport alle organizzazioni mafiose che in un primo momento chiederanno quella scommessa divertente e poi alzeranno sempre di più la posta. Insomma, bastano queste poche testimonianze per capire quanto il quadro sia complesso e quanti siano i punti su cui bisogna intervenire per creare almeno degli argini difendibili a un fenomeno in continua crescita a livello mondiale. Come stanno lavorando i monopoli italiani? Lo abbiamo chiesto a Luca Turchi, dirigente proprio della AMS, della direzione scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore. Insomma, è l'uomo chiave dei monopoli italiani proprio sul tema delle scommesse sportive. Dal punto di vista dei monopoli abbiamo messo in piedi un sistema di controllo di tutti i flussi di giocate. L'analisi di questi flussi ci permette di ritenere se alcune partite sono sotto possibile manipolazione o meno. In caso in cui riteniamo che una partita è sotto manipolazione, facciamo le nostre comunicazioni alle forze di polizia e anche alla federazione e lega sportiva coinvolta, affinché riusciamo, se possibile, a prevenire il fenomeno tarocco. Nel passato, quando sono state fatte le segnalazioni, devo dire che in questa stagione calcistica ancora non è stato visto niente di anormale, molto spesso siamo riusciti a intercettare flussi di gioco anomali anche 48 ore prima che iniziasse la partita, anzi in un caso addirittura 9 giorni prima. Al di là di quello che sappiamo e delle inchieste in corso, campionati più a rischio sono quelli minori, più difficili da monitorare e da controllare, anche se poi leghe come la Lega Pro sono direttamente in campo e all'avanguardia nelle attività di contrasto. Ma più che più difficile da controllare non direi, perché il controllo poi alla fine avviene analogamente a quello che avviene per altri campionati di più forza, di maggior forza. È chiaro che, essendo dei campionati dove molte società subiscono una crisi e quindi magari ci possono essere situazioni di ritardati o mancati pagamenti dei calciatori, questi si possono sentire più vulnerabili e quindi maggiore può essere il rischio che la partita sia sotto appunto manipolazione, sia combinata. La Lega Pro ha fatto una serie di attività di informazione presso tutte le società, quindi attività condotte presso i presidenti, i dirigenti, gli allenatori, i preparatori, i giocatori, proprio per illustrare qual è il rischio del fenomeno calcio scommesse e quindi attuando uno degli strumenti di prevenzione, che è quello dell'informazione. Quali passi ulteriori possono essere messi allo studio? Beh, passi già fatti sono accordi che noi abbiamo come Monopoli di Stato col CIO e con la FIFA, proprio per condividere le informazioni anche con organismi sportivi internazionali. Analogamente abbiamo degli accordi anche con i regolatori pubblici di altre nazioni europee, e questi accordi ci hanno permesso anche di andare a scoprire informazioni interessanti e o anche magari andare a comunicare che alcune partite che sembravano combinate all'estero magari erano regolarissime nel nostro circuito. Quindi questi accordi, questi memorandum d'intesa siglati sono stati per noi uno strumento importante per analizzare il fenomeno. Tre elementi su cui lavorare ancora per migliorare le politiche e le azioni di contrasto: comunicazione, e che parta almeno dai 14 anni, perché chi ha 14 anni oggi già è sotto rischio e domani a 18 anni probabilmente già partecipa a una gara di campionati semiprofessionistici o professionistici. Seconda cosa è una stretta maglia di informazione con le forze di polizia, ma la prima e più importante è quella che il mercato degli operatori di betting e gambling in Italia abbia delle regole certe e che non ci sia, speriamo già da domani, la presenza di operatori senza concessione e i cui flussi di gioco sono praticamente sconosciuti. Questa è la testimonianza di Luca Turchi. Beh, abbiamo cercato di fare il punto oggi a bordo campo, portandovi queste voci inedite degli esperti, dei tecnici, degli operatori che stanno affrontando il tema scommesse illegali. Ahimè, sono certo che non sarà purtroppo questa né la prima, perché basta scorrere quanto abbiamo già fatto qui a bordo campo, ma purtroppo non certo l'ultima puntata che dedicheremo a questo argomento. A bordo campo. Più forte di Sandy, più forte dell'uragano che ha sconvolto la costa est e New York in particolare col suo tragico bilancio. Ebbene, la maratona più grande e importante del mondo si vuole dimostrare più forte anche della devastazione portata da Sandy, e oggi a bordo campo parliamo proprio della maratona di New York e di un legame del tutto particolare che la unisce con Roma e con una manifestazione non podistica ma sulle due ruote in bicicletta, che qualche settimana fa si è svolta proprio a Roma e che con New York ha costruito un legame davvero singolare. Allora, benvenuto al nostro ospite di oggi, l'avvocato Gianluca Santilli, procuratore federale della Federazione Italiana Ciclistica, arbitro della Camera di Conciliazione e membro della Commissione Vigilanza Doping e Tutela della Salute del Ministero della Salute, e anche presidente del comitato organizzatore di quella che è stata la Gran Fondo di Roma di ciclismo. Benvenuto, avvocato Santilli. Grazie mille a voi e ai vostri ascoltatori. Ecco, avvocato, partiamo subito dal legame tra Roma e New York che avete costruito a partire da quello che è stato il successo di partecipazione alla Gran Fondo di Roma di ciclismo. Nel segno delle due ruote, nel segno della bici, è nato un legame davvero gustoso, eh? Direi proprio di sì, due città icone che sono una assolutamente complementare all'altra, quale Roma e New York. Io avevo partecipato alla Gran Fondo di ciclismo di New York di un paio d'anni fa, alla prima edizione, avevo già in lavorazione il progetto per la Gran Fondo di Roma. Abbiamo immediatamente convenuto con gli organizzatori che fosse di straordinaria sinergia questo tipo di binomio, e quindi da subito Gran Fondo in New York si è gemellata con Gran Fondo Roma. Maratona, ciclismo, legame indissolubile, importante, che mi fa venire però in mente anche Lance Armstrong, no? Che nella maratona di New York più volte si è cimentato. Da appassionato sportivo, prima che chiederle le sue riflessioni da tecnico, che sapore l'ha lasciato il caso Armstrong? Ovviamente amaro, molto amaro. È quello che purtroppo temo si scoprirà, è che era in ottima compagnia. È stato un periodo veramente buio quello di Lance Armstrong. Purtroppo non è buio solo per il ciclismo, e questo lo posso dire invece da tecnico, in quanto come membro della Commissione Vigilanza Doping si parla molto di doping nel ciclismo, ma ahimè il doping è in tutti quanti gli sport. Nel ciclismo c'è invece da qualche anno la voglia di far pulizia, e quindi i controlli nel ciclismo sono molto più semplici, sono costanti, sono a tappeto, ci sta il passaporto biologico per i professionisti, che è stato effettivamente molto utile, e ci sono i controlli nelle corse anche amatoriali, perché purtroppo ci sono un sacco di amatori senza cervello che pur di fare una prestazione, ripeto, amatoriale, si fanno abbindolare da qualche stregone e prendono sostanze dopanti. È un fenomeno di educazione, e sicuramente il caso Armstrong è stato emblematico. Abituato a vedere il lato positivo delle cose, credo che forse questo tipo di evento ci dovrebbe portare invece a darci da fare ancora di più per uscire da questa spirale, che poi è molto più estesa. Il doping, in fondo, a mio parere, è anche la corruzione, il doping è la raccomandazione, la bustarella, l'aiuto, cioè è il dover arrivare a un certo tipo di traguardo con delle scorciatoie non corrette. Da procuratore federale si è sentito un po' scavalcato da questa inchiesta dell'USADA, che ha scelto altri percorsi, per alcuni aspetti forse anche più diretti, per arrivare al suo risultato, però insomma forse poteva essere anche l'occasione buona per fare ancora ulteriore pulizia nel nostro ciclismo. Allora, intanto io come procuratore federale della Federciclismo non sono il procuratore antidoping, quindi mi occupo prevalentemente di tutti quelli che sono gli illeciti, diciamo così, di condotte comportamentali. La Federciclismo, con molto coraggio e con molte peraltro anche critiche, ha vietato la maglia azzurra a tutti coloro che, ancorché avessero scontato la squalifica per doping, hanno avuto a che fare col doping, e questa è stata la prima. Ha tentato il comitato organizzatore di Londra di far qualcosa di analogo, e credo che la WADA lo introdurrà proprio come principio etico, quindi non consentire di vestire la maglia della nazionale a chi ha avuto a che fare col doping, credo sia un deterrente non solo etico ma anche molto forte. E la Federciclismo ad oggi è stata l'unica federazione di qualsiasi sport a livello internazionale che ha posto in essere questo, proprio per quella voglia di pulizia che ha all'interno. C'è un passaporto biologico, qualcosa di analogo, un monitoraggio sulla salute dei giovani, promosso anche questo in Commissione Vigilanza Doping dai due membri della federazione. Io e il dottor Simonetto siamo gli unici membri di federazione all'interno della Commissione Vigilanza Doping, e credo che anche questo abbia un significato. E allo stesso tempo, sempre a livello di federazione, c'è un'attenzione spasmodica su tutto quello che riguarda anche lo sport giovanile. che è lì che bisogna, a mio avviso, intervenire sia sui giovani sia sugli amatori, perché gli amatori poi sono i padri di quei giovani e quindi bisogna che loro diano l'esempio, diano l'educazione. Ecco, avvocato, le chiedo, amatori che sono, come sottolinea, la categoria per paradosso più a rischio, perché sono quegli appassionati che hanno visto frustrato il loro sogno spesso di diventare atleti professionisti e che cercano aiutini e scorciatoie per riviverlo quando il fisico non glielo consente più, ai loro quel sogno, quella dimensione. Come si educa questa fascia di età che va dai 35 ai 50 anni? Perché sui giovani dei progetti, dei percorsi in qualche modo si riesce ad individuarli, ma su queste persone, su questi amatori, come state lavorando anche attraverso come iniziative come la Gran Fondo? Per esempio la Gran Fondo di Roma, così come altre Gran Fondo della Federazione, prevede una serie di controlli, non solo i controlli cosiddetti a sorpresa antidoping, ma anche dei controlli ematici fatti precedentemente alla gara. Io sono presidente di un consorzio che racchiude le più grandi Gran Fondo e abbiamo richiesto che una serie di atleti, circa un centinaio, si debbano sottoporre a un controllo ematico prima della gara e che ci diano le loro analisi fatte almeno 3 volte l'anno sul sangue. Questo vi assicuro che è un qualcosa che va molto al di là di un così blando tentativo. Il discorso purtroppo non è dei 35-50 anni, ma direi è dei 45-65 anni, quindi ancora più grottesco, perché persone mature che dovrebbero aver raggiunto, diciamo così, non tanto la pace dei sensi, ma quanto una ragionevolezza sufficiente, evidentemente non riescono, almeno alcuni, a resistere a quello che adesso si chiama un po' l'estremo, la sfida, il fare in bicicletta più di 200 km, il fare ultramaratone e forse così per farsi belli con gli altri e sentirsi un pochino più giovani, un pochino più forti, un pochino più determinati. E è effettivamente una mania, come tutte le manie poi diventano pericolose e controproducenti sotto tutti i punti di vista, in primis quello fisico, e quelli che si chiamano in gergo gli sport addicted addirittura perdono di vista quelle che sono le priorità logiche, famiglia, lavoro, pur di dedicarsi allo sport, pur di migliorare le prestazioni. È evidente che si passa poi dagli integratori, da qualche medicinale e lì il confine con l'utilizzo di sostanze dopanti è veramente molto labile. Che cosa si può fare? Si può semplicemente dare l'esempio, limitare certi tipi di prove, aumentare la sensibilizzazione sulla necessità di farsi analizzare da professionisti con grande attenzione, anche andando al di là di quelle che sono le visite medico-sportive, diciamo così, standard, e sostanzialmente fare molta attività di prevenzione, perché è veramente molto molto pericoloso imbattersi in certi tipi di percorsi e spesso purtroppo qualcuno ci muore addirittura. Avvocato, speriamo davvero di non dover più raccontare cronache di questo tipo così drammatiche. Speriamo che il lavoro che state facendo e che stiamo facendo un po' tutti arrivi veramente a fondo, soprattutto non solo dei fisici, degli atleti, ma delle coscienze di chi lo sport vuole farlo in modo sano e pulito. Gianluca Santilli, grazie per essere stato nostro ospite oggi a Bordo Campo e in bocca al lupo, immagino, avvocato, per quello che sarà la Gran Fondo 2013. La Gran Fondo 2013, che abbiamo già battezzato 13-10-13, perché il 10 alla romana, quindi sembra 13x13, è già stata fissata, inserita nell'ambito dei grandi eventi sportivi romani, anche questo lo considero un record assoluto, e verrà strutturata probabilmente attorno al Circo Massimo, avrà tutta una serie di ulteriori migliorie per renderla effettivamente uno dei grandissimi eventi internazionali. Quindi aspettiamo tutti il 13 ottobre 2013 gli appassionati, abbiamo già superato in pochi giorni 2500 iscritti, quindi stiamo andando credo verso un numero chiuso in tempi molto brevi e speriamo che questo numero chiuso sia arricchito da tantissimi stranieri per garantire un indotto a una città che se lo merita tutto, perché è veramente meravigliosa quale Roma.